Mila! 100, 1000, 10.000 volte mila! Ai ai ai! Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. E siamo qui, cari ascoltatori, eccoci per una nuova puntata di Uno Nessuno 100 Milan. Come sapete, siamo con voi fino alle 11. Oggi devo dire, abbiamo sentito il giornale radio, l'ultima notizia, iniziamo con col dolore nel cuore. L'avete sentita la improvvisa morte di John Peter Sloan? Lo avevamo ospitato varie volte, era con noi, era diventato un po' un amico, era un amico intanto di Leonardo Manera, che più tardi ci raggiungerà, e l'abbiamo conosciuto così, l'abbiamo tirato dentro varie volte nella nostra Uno Nessuno 100 Milan col suo inglese perfetto, le sue mattane, il suo italiano che amava tanto perché amava profondamente l'Italia. L'ultima volta, una delle ultime volte, se forse ricordate, lo avevamo chiamato alle 10 del mattino per risolvere un cruciverba che Leonardo non riusciva a fare per suo figlio Beniamino in inglese. Lo vogliamo ricordare così, con una delle ultime volte in cui è venuto a trovarci John Peter Sloan. Vai Alpino. Però ho voluto dall'inizio a capire l'italiano. Questa è stata una... a capire... cioè volevo essere... così stiloso, così elegante, così divertente, così comunicativo. Vedevo l'italiano e vedevo un tipo di persona che volevo essere io. Quindi, avete nelle DNA certe cose, io ho dovuto impararla, sì, diciamo. Però vedi, è stato mio fortuna, è stato proprio l'amore di capire bene la mente italiana e voler capirla per insegnarla. E allora ciao John Peter Sloan, ti volevamo bene, e poi dopo arriverà anche Leonardo Manera a salutarti. Allora, sono le 9:09, cari ascoltatori, siamo con voi fino alle 11. Voglio salutare a fianco l'Alpino in regia Claudia Schiattone, che oggi ci aiuta, insieme alla nostra redazione con Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti ed Elisabetta Fusconi. Ale, vai Alpino. Enthusiasm about the future. Ripartiamo da qui. Allora, le avete sentite le polemiche sugli assistenti civici? Noi ne abbiamo parlato lungamente ieri. Avevamo ospite una delle persone, il presidente dell'ANCI De Caro, che è uno dei fautori insieme al ministro Boccia di questa proposta che tanto fa discutere anche all'interno del governo, col ministro Lamorgese, ministro dell'interno, che in pratica ha fatto sapere che non era stato consultato il Viminale. Dopodiché, io, se ho capito bene, questa proposta va avanti, spiegata con il fatto che non saranno deputati a sanzionare nessuno, saranno lì un po' ad aiutare i cittadini. Certo, sono volontari, quindi non costano allo Stato, anche se qualcuno ha fatto notare che vanno formati e quindi un certo costo c'è. Oggi Massimo Gramellini è molto molto duro nel suo commento Il Caffè in prima pagina del Corriere della Sera. Dice: voglio sperare che il parto di uno Stato poliziesco non vedrà mai la luce, ma nel caso mi premurerei di suggerire agli assistenti civici, pare si chiamerebbero così, di rispettare per primi il distanziamento sociale, girandomi alla larga. Minaccioso oggi Gramellini. Chiede a questi assistenti civici di girargli alla larga. E perché, se no, che cosa fa il buon Gramellini se dovesse incrociare uno di questi assistenti civici in futuro? C'è da dire che ieri l'espressione che il ministro Boccia ha utilizzato, bastone e carota, in un'intervista a Fabio Martini sulla Stampa, e che più volte abbiamo sottolineato, anche a me ha fatto storcere il naso, Molto bastone e carota. Ma che Stato è quello che decide bastone e carota? Cioè, noi siamo i bambinetti di 3 anni? Siamo degli asinelli da raddrizzare nel cammino storto col bastone e la carota? Non ho capito. Infatti oggi segnalo l'intervento dello storico Francesco Perfetti, lo trovate sul Giorno, sul quotidiano nazionale. E insomma, questa immagine del bastone carota appare utilizzata da Churchill, ma sicuramente utilizzata da Benito Mussolini nel suo ultimo libro Il tempo del bastone e della carota. Ecco, scrive Perfetti: è implicita in questa immagine la visione paternalistica del cittadino, il quale appare come un essere non tanto dotato di razionalità e titolare di diritti costituzionalmente garantiti, ma piuttosto bisognoso di essere guidato attraverso la blandizia o le punizioni da chi al potere detiene la verità assoluta. Ecco, non siamo così. E non vorremmo neanche arrivarci. Questo è il mio modesto parere. Boccia è partito tutto al TG1 di domenica sera, eh? Boccia si è presentato addirittura con la pettorina degli assistenti civici. Forse ha buttato, come dire, il cuore un po' troppo oltre l'ostacolo. Vai, Alpino, con Boccia. Gli assistenti civici, guardi, indosseranno questa pettorina e saranno a disposizione dei sindaci. Con il loro sorriso e la loro educazione ricorderanno nei luoghi dell'assembramento che bisogna fare ancora qualche sacrificio. Vabbè, su questa è subito bagarre politica. Si è scatenato Salvini, ovviamente. Vai a dire che non daranno sanzioni, non daranno multe, non si sostituiranno alla forza pubblica. Salvini subito utilizza questo pretesto degli assistenti civici per usare uno dei suoi cari slogan. Salvini: i guardiani usiamoli per inseguire delinquenti e spacciatori e non per spiare cittadini che vogliono soltanto tornare a vivere e a lavorare con la testa sulle spalle. Ecco, basta, come tutto in Italia, qualsiasi proposta è finita, lo dico proprio gentilmente, in vacca. Vai tu a dire che non c'entra niente con la forza pubblica, si tirano in ballo gli spacciatori, i criminali, via, finito tutto. Qualsiasi dibattito, qualsiasi profondità del dibattito finisce così, a risse. Adesso andranno nei talk show, si urleranno addosso, uno evocherà le ronde naziste, quell'altro i capò, quell'altro e alle, basta, è finito tutto, non si può discutere di niente. E amen, alla prossima. Dunque, devo dire che, se volete, parliamo anche un po' di Movida, eccetera, e di tante altre notizie. Prima però voglio concentrarmi sull'aspetto medico, scientifico, se volete. Per questo voglio salutare colui che ha presieduto la Società Europea di Virologia, il professore emerito di microbiologia a Padova, il professor Giorgio Palù, che è con noi. Buongiorno, professor Palù, e grazie di aver accettato questo invito. Buongiorno. Allora, senta, professor Palù, io le ripeto come l'ho letta oggi a pagina 3 del Quotidiano Nazionale, lo dice il professor Caruso, quindi Società Italiana di Virologia, ne è il presidente. Il titolo è questo: abbiamo isolato il virus, è meno forte. Questo è il titolo di giornale. Ci aiuti a capire, perché spesso si dice ha perso potenza, ha perso forza, i malati sono meno gravi, qual è lo stato della situazione attuale? Allora, guardi, questo è un virus, chiamiamo tra virgolette, umanizzato, perché riconosce le cellule umane con grande affinità, quindi il recettore ACE2, che è l'enzima di conversione dell'angiotensina 2, è riconosciuto con un'affinità circa 30 volte superiore a quella con cui il virus della SARS-CoV-1, il predecessore di questo virus del 2002, riconosceva diciamo le cellule umane. Quindi abbiamo due modi per vedere la capacità di questo virus di essere efficiente nell'infezione: una è misurarne proprio il tasso replicativo e quindi la concentrazione virale su cellule infettate, si chiama fitness, vale a dire la robustezza del virus nel crescere. È un virus, quando infetta una cellula ovviamente si moltiplica, produce milioni di particelle, ne fuoriesce e più delle volte uccide la cellula. E quindi questa è la prima misura biologica. La seconda è quella di capire se c'è una modificazione quindi del comportamento del virus nelle cellule. Ovviamente questo non lo possiamo fare nell'uomo perché non possiamo usare l'uomo come cavia. Abbiamo al momento pochissimi modelli animali, da poco si è scoperto che il furetto e la cavia potrebbero essere utilizzati, ma è più semplice utilizzare delle cellule, in questo caso si usano le cellule di scimmia, cellule vero in cottura. Poi una volta verificato questo si cerca di capire se dipende dalla cellula o dal virus. Dalla cellula non può dipendere perché se uso sempre quella cellula di solito non subisce modificazioni, bisogna studiare il genoma virale. Quindi io credo che quello che abbia fatto il professor Caruso è, essendosi accorto che uno di questi isolati virali dai tantissimi pazienti che tutti i giorni mandano i tamponi nel laboratorio di microbiologia e virologia, probabilmente ha isolato un virus che si comportava in maniera dissimile dagli altri, probabilmente cresceva meno, quindi aveva perso vigore nel replicarsi nelle cellule e si è andato a sequenziarne il genoma e abbia visto che ci sono delle modificazioni che lo rendono diverso dal virus che circolava prima o no, quelli perché... oltre 10.000 sequenze genomiche che sono pubblicate e depositate nelle banche dati di tutto il mondo. Perché professor Palù, oggi anche sul Corriere della Sera sono intervistati tantissimi medici di base che ovviamente osservano i dati clinici e dicono, molti di loro dicono non riceviamo fortunatamente più telefonate negli ultimi 20 giorni di persone, di pazienti che manifestano quei sintomi. Cioè sembra dal punto di vista dell'osservazione clinica che siamo in una fase più tranquilla, ecco, poi bisogna essere sempre cauti perché sennò la gente è subito pronta ad attaccarti e dire stai dicendo che è finito tutto, no? Io non sto dicendo niente, sto riportando quelle che però sono le dichiarazioni dei dati clinici, per esempio, di molti medici. Allora, non solo i dati clinici, ma siccome sento in contatto anche molti colleghi virologi che mi chiamano, mi dicono che effettivamente anche loro vedono dei tamponi con carica virale più bassa e quindi ci sarebbe una suggestione. Allora, o le ipotesi sono due, o effettivamente questo virus ha perso potenza e quindi robustezza, fitness come si dice, replica meno bene, ma allora bisognerà provare qual è la ragione, quindi capire e quali sono le mutazioni, se sono le mutazioni del genoma, in che geni sono venute, per correlarle a questo fenotipo, cioè a questo comportamento, oppure bisognerà prendere per buoni i dati clinici, ma allora questi quindi o sono correlati a un virus che ha perso vigore, ma appunto come dicevo bisogna dimostrarlo, oppure siamo in tutta Italia nella fase discendente dell'epidemia o della pandemia, quindi ci stiamo avvicinando all'estinzione, nel senso che in molte regioni il cosiddetto indice riproduttivo del virus o la sua contagiosità si avvicina allo 0, dallo 0,5, allo 0,3, allo 0,2, allo 0,1 e quindi questo ovviamente mitiga la diffusione dei casi. Quindi delle due l'una. O è cambiato il virus, ma bisogna dimostrarlo, oppure stiamo scemando nell'incidente dei casi e quindi la patologia e il virus si diffonde meno. Alla luce di questo le chiedo, ma lei non è un politico, poi è la politica che decide, le faccio una domanda da cittadino, non le sembra, alla luce di questa possibile seconda ipotesi, cioè che stia scemando, non le sembra un po' esagerata la, come dire, il puntare l'indice verso, che ne so, chi va a fare l'aperitivo, sempre che bisogna rispettare le regole, distanziamento sociale, lo sappiamo, ma questo cercare con insistenza qualche colpevole in qualche modo di un rischio di seconda ondata? Guardi, qua non occorre essere politici, bisogna essere dei cittadini che non hanno solo i diritti, il diritto alla movida, il diritto a riprendere una vita sociale dopo 3 mesi di quarantena, di isolamento. Abbiamo tutti dei doveri verso gli altri, quindi questo è un virus di cui ancora conosciamo poco, abbiamo appena parlato, no? Riguardo alle mutazioni che vanno confermate, al comportamento sia biologico che clinico di questo virus. Quindi, conoscendo poco, è giusto avere tutte le cautele del caso, perché dobbiamo avere rispetto di noi stessi, ma soprattutto degli altri, delle persone che incontriamo e soprattutto di quelle più fragili, e mi riferisco agli anziani, perché sono loro ovviamente in cima alla categoria a rischio, perché la mortalità ovviamente più elevata è proprio sopra i 70 anni, quindi i nostri nonni. Quindi è un dovere civico a cui, ecco, il politico può appellarsi più che tanto alle regole, ma qualcosa che tutti dovremmo considerare, quindi fa capo alla nostra cultura, al nostro senso di rispetto e del dovere. Sì, quindi lo trova giusto, ma questo sì, il rispetto delle regole, no, ma notavo insomma che c'è un po' la tendenza a dire anche questa idea della fase 2, cioè io credo che un governo e le istituzioni, i medici, tutti si debbano tenere pronti, spero che questa situazione da marzo abbia insegnato a dire ok, se dovesse succedere in autunno dobbiamo essere pronti e preparati. Lei da questo punto di vista vede un paese pronto all'eventuale seconda ondata, e ci dica anche che cosa significa parlare sempre di questo rischio seconda ondata. Allora, c'è anche un rischio prima della seconda ondata che ci sia una riaccensione dei focolai. Un focolaio epidemico sono due persone definite da uno spazio-tempo che sono infettate, quindi nel stesso tempo e nella stessa localizzazione. Quello è un focolaio. Quindi se si riaccendessero i focolai, ovviamente dovremmo tutti preoccuparci. Da questo punto di vista io non so quante regioni, perché parliamo di regioni, ovviamente sono provvedimenti locali, siano effettivamente preparati. Non potremmo subire un altro lockdown che sarebbe nefasto per la nostra economia, che già scivola verso livelli pericolosissimi con un PIL a meno 9%, quindi situazioni insostenibili anche per la spesa pubblica, la previdenza, la sanità, la ricerca. Quindi essere pronti significa essere pronti a bloccare sul nascere un focolaio che insorgesse ex novo, e quindi mettere in atto tutte quelle procedure di isolamento, ma soprattutto di tracciabilità, identificazione dei contatti, in modo da non bloccare tutto, ma di isolare rapidamente le persone che sono venute in contatto con un caso infetto. E credo che questo sia più nella disponibilità di regioni che hanno sistemi elettronici, epidemiologici, di sorveglianza anche biologica e clinica molto ben approntate. E questo devo dire che il Veneto ha dimostrato di essere pronto, altre non so. Per quanto riguarda la seconda ondata, sì? Ecco, stiamo tutti parlando un po', diciamo, improvvisando, cioè noi è la prima volta che succede una pandemia da un coronavirus, nessun altro virus, coronavirus recentemente lo è stato, nella MERS, nella SARS, hanno infettato 10.000 persone, quindi qua invece siamo a 5 milioni e mezzo, ci avviciniamo ai 6 milioni di persone con oltre 350.000 morti nel mondo. Quindi è probabile che questo virus rimanga, e l'analogia in questo caso non può essere fatta con i coronavirus che si sono rapidamente estinti, ma con le pandemie ne abbiamo avuto due in questo secolo, una da coronavirus attuale e una dall'influenza nel 2009, l'H1N1, ma ne abbiamo avute altre tre nel secolo scorso, sempre da influenza. Sì. Quindi è sempre avvenuto che un virus pandemico respiratorio, non coronavirus, ma influenza virus, che cominciava nella primavera, nell'autunno-inverno ritornava. Quindi è un assunto, è una speculazione, non è una certezza. Ecco, non è una certezza. Non è vero che questo virus significa che in realtà la natura ha prodotto un salto di specie anomalo, che questo virus, ovviamente come tutti i virus, non è destinato a far fuori l'ospite che ne è il suo serbatoio naturale, che in questo caso è l'uomo, perché il virus tende a persistere, a convivere, e ha tutto l'interesse a modificarsi per non essere virulento. Certo. Però intanto vedremo. Noi la ringraziamo, grazie al professor Giorgio Palù, ripeto, ha presieduto la Società Europea di Virologia, professore emerito sempre di virologia a Padova. Perché lo dico? Perché per esempio mi ha colpito oggi il titolo del Fatto Quotidiano, che ha un'intervista al commissario straordinario Arcuri, il titolo è "Ci prepariamo al ritorno del virus". Per carità, i titoli devono semplificare, poi è un colloquio anche molto approfondito e interessante. C'è anche l'aspetto psicologico che andrebbe trattato, cioè se continuiamo a dire 50 volte al giorno, se non 500, attenzione alla seconda fase, attenzione alla seconda ondata, siamo pronti, ci prepariamo, tanto si crea una cappa sullo spirito delle persone. Ci si può anche preparare senza ricordare ogni secondo che potrebbe andare peggio, perché poi dopo, se appena c'è un minimo peggioramento, la gente tende ad amplificare, e quindi anche l'aspetto comunicativo e psicologico non è così secondario. Infatti i risultati li vedete, se andate in qualsiasi ristorante sono vuoti, perché le persone sono terrorizzate adesso, anche se ti dicono guarda che è tutto fatto secondo le regole, uno ha la paura di metterci piede, è terrorizzato. Va bene, secondo me va male, però così è. A proposito di ristoranti, oggi ho notato sul Quotidiano Nazionale che sono pubblicati vari scontrini effettivamente con il contributo Covid, che in genere è il 22% della prestazione, cioè un'IVA aggiuntiva sulla prestazione che viene data. Guarda qua, per esempio, un contributo per epilazione ascelle e epilazione intera, insomma se si è fatta togliere i peli o si è fatto togliere i peli il cliente, e contributo Covid 22% 4 euro. E so che i miei amici del Codacons, l'avvocato Carlo Rienzi, sono infuriati su questo. Effettivamente io capisco chiedere un contributo dal punto di vista volontario. Certo che mettere sugli scontrini prestazione Covid o contributo Covid, un'IVA aggiuntiva del 22%, cari commercianti, almeno chiedetelo se in via generosa uno vuole lasciare un euro in più, piuttosto uno con fiducia al cliente affezionato spiega il perché ha dovuto, che ne so, aumentare di un euro, due euro i prezzi, dicendo guardate, succede purtroppo in questa situazione, il prezzo è aumentato, i patti sono chiari all'inizio, ma non che uno mi fa lo scontrino e mi ritrovo il contributo Covid del 22%. Vabbè, dai, andiamo, non so cosa ne pensiate voi, comunque chiamateci all'800 24 0024, scrivete o mandate WhatsApp al 349 238 6666. Ora un attimo di pubblicità. 1, nessuno, 100 Milan. Questi assistenti civici secondo me non servono a niente. Giusto che si devono responsabilizzare i cittadini, senza bisogno, sempre si dice a Napoli, di un Mastro Giorgio che dice quello che devono fare. Buongiorno, Manera subito assistente civico. Come dice il buon Manera, ha ragione sia Salvini che Boccia, tutti hanno sempre ragione. Siamo qua, allora, alle 9.33 minuti, eccoci qua, e ci ha raggiunto Leonardo Manera. Buongiorno Leonardo. Buongiorno, allora, buongiorno a tutti voi. Dicevo in apertura, un giorno triste, oggi abbiamo raccontato della morte, la scomparsa di John Peter Sloan, che era soprattutto amico tuo, che ci hai portato qui a farlo diventare amico della nostra trasmissione. Sì, sì, io l'ho conosciuto tanti anni fa a Zelig, durante un laboratorio che veniva fatto tutte le settimane a Zelig, in cui salivano sul palco tutti i comici stranieri, e lui mi colpì subito per la forza e l'energia che aveva sul palco e anche, insomma, nella vita. Ed era una persona alla quale non si poteva non voler bene, e quindi mi ha colpito molto questa notizia. Mi anche nella sua davvero, mattitudine, ecco, no? Nella sua l'inglese, il più simpatico inglese matto. matto, ecco, perché in realtà non era mattitudine, era capacità artistica, così. Sì, sì, abbiamo condiviso un po' di spettacoli e insomma, quando si condivide il palco poi si crea sempre qualche cosa di anche umanamente importante, stare insieme in camerino, bersi una birra insieme come piaceva lui e questa cosa mi ha colpito molto perché anche per l'età, insomma, no? Aveva 51 sì, anni. Sì, molto, molto giovane, certo. E quindi così. Lo so, John Peter ci mancherà sicuramente. Ti mancherà anche perché quando devi risolvere il cruciverba di Beniamino, adesso devi studiare sì, di più in inglese. Farò più fatica, sì, sì. Allora, dai, le 9:35 minuti, siamo qui cari ascoltatori. Allora, adesso vogliamo risalutare con piacere Graziella Viviano, che torna con noi per una vicenda che ci aveva raccontato e che è almeno questa risolta, anche se ha comportato un ennesimo aggravio di dolore. La signora Graziella, buongiorno e bentrovata. Buongiorno, Graziella. Buongiorno a voi, buongiorno ad Alessandro, ciao e buongiorno a Leonardo. Allora, Graziella, ricordiamo, è la mamma di Elena Aubry, che era il 6 maggio 2018 era morta in seguito a un incidente in moto sull'Ostiense. Allora, la vicenda che ci aveva raccontato era questa, che qualcuno aveva sottratto le ceneri di sua figlia. Ora, le ceneri sono tornate in suo possesso, questa è la notizia positiva, ci aiuti a capire qualcosa di più. Allora, vi posso dire che sono felice, sembra un paradosso ma è così, sono felice che mia figlia sia tornata a casa. Sono tornate perché sono state trovate grazie a un intervento e a una, come dire, a una fantastico lavoro fatto dai carabinieri della stazione di San Lorenzo di Roma. Un'indagine che li ha portati addirittura a trovare le ceneri dentro casa di, a questo punto devo definire, un povero malato mentale, insomma. Ecco. Sì, sì, perché in tutto questo è stata trovata la persona, cioè una persona è che è stata trovata che, sì, è una persona che cosa che ha detto questa persona? Sì. Guarda, cosa dice? Che si è chiuso nel silenzio una volta che l'hanno, questo l'ho saputo dai giornali, ma questa persona purtroppo già dieci anni fa girava per il cimitero del Verano rubando delle fotografie di ragazze per trovare la sua donna ideale e per questo fu condannato nel 2015, ma a quel tempo rubava solo foto, stavolta ha fatto un salto di qualità, se lo vogliamo definire così, rubando le diciamo cene. Ecco, come ha detto lei, entriamo nel campo probabilmente di sicuramente del disequilibrio mentale, ecco, mettiamola così. E che tipo di denuncia, che tipo di reato è quello in cui incorre questa persona che è stata già condannata? È una soppressione di cadavere, quindi di salma, no? Quindi non è una cosetta da poco. E poi ci sono le relative aggravanti, non è un fatto penale trascurabile. Ma sì, soprattutto, ecco, una persona che è in quello stato, credo che sia logico quello che sto dicendo, è bene, come dire, che soprattutto venga controllato sotto il profilo, come posso dire, della salute mentale. Sì, non è, non al di là di quanto possa essere tenuto brutalmente in galera, come si dice, ma è chiaro che deve essere controllato, insomma, non può, non è una persona che può andare in giro, ecco, quindi questa è la situazione. Però posso dirvi una cosa, che delle tante ipotesi che si sono fatte, questa ipotesi che è assolutamente impersonale, cioè non sono state prese le ceneri di Elena Aubry, sono state prese le ceneri di una bella ragazza, mi ha molto molto, come posso dire, tirato su, non sì, mi ha, perché sì, sì, sì, ha escluso qualsiasi altro tipo di spiegazione. Per ciò che faccio, insomma, penso lo sapete, lo sappiano in tanti, ciò che faccio, pensare che è volontariato di fatto a tutti gli effetti, pensare che ci poteva essere qualcuno che era arrivato a odiare Elena o addirittura me, vi assicuro, era una cosa che mi creava un dolore incredibile, anche non ci volevo e non ci potevo credere, ma poteva essere una delle possibili ipotesi. E questa cosa aggiungeva dolore al dolore. Sì. Allora, signora Graziella, intanto la ringraziamo nuovamente, almeno questa pagina è chiusa e la ringraziamo per essere stata qui. Graziella Viviano, speriamo davvero Vi posso dire una cosa? Allora, dire che Elena ritornerà a casa in moto? Vi posso dire come ha interpretato tutta questa cosa? Sì, come no? Forse un po' matta, ma da mamma mi piace vederla così. Elena è una motociclista, sapete che i motociclisti col sole non stanno fermi, poi dopo lo sblocco del Covid, diamo un messaggio positivo agli italiani. Io la vedo un po' come una piccola rinascita di una ragazza che voleva tornare in moto, di una ragazza che non voleva stare più in un piccolo buco, un forno a microonde come lo chiamo io, e ha deciso di andare a farsi un giro in moto e di poter ritornare a casa e di tornare, e l'andremo a prendere in moto e l'andremo a riprendere in moto per tornare a casa. Beh, mi sembra un messaggio bello e noi davvero la ringraziamo e l'abbracciamo. Grazie alla Viviano, grazie per essere stata qui. Soprattutto fa piacere sentire la signora così sollevata, insomma, rispetto all'altra volta. Sì. È sempre stata molto molto combattiva, molto forte. Sentiamo Giovanni da Milano. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Eccoci. Milan, buongiorno Leonardo. Innanzitutto voglio dirvi che siete diventati una dipendenza per me, io non riesco manco più a uscire di casa se non finisce la trasmissione, quindi grazie Potrebbero usarci per evitare le movide, cioè ci potrebbero mettere in orari da movida? Esatto, adesso c'è un progetto di fare come la 24 ore di Le Mans, di farci fare la 24 ore in modo che gente come Giovanni, dipendente, non si stacca. Scherzo, va Giovanni. Niente. No, la telefonata era dovuta al fatto, io ho un locale a Milano, in zona Isola, e stamattina a Radio 24 ho sentito il discorso, cioè la nuova regola che del sindaco Sala, no? Divieto dopo le 19 di vendere alcolici e superalcolici da asporto. Okay. Ma nello stesso tempo, leggendo invece l'articolo, nell'articolo c'è scritto che tu non puoi bere nemmeno in piedi. Quindi, in piedi, sentiamo, stai lì Giovanni, sentiamolo Sala, Alpino, mandaglio. Sala, ce l'abbiamo? È chiaro che io vorrei evitare chiusure a tutela di chi sta lavorando, però è altrettanto chiaro che questo weekend, ecco, non è stato un weekend sereno e ovviamente non possiamo immaginarne un secondo in questo modo. Vabbè, questa è la dichiarazione politica. Allora, Giovanni, la questione è, io ho capito che non si può fare l'asporto e quindi non si può... Sì, perché consumare in piedi è identificativo associato a una sorta di asporto, cioè si deve stare seduti nei tavolini. Quindi, cioè, nel senso, sono due cose diverse. Se arriva un ragazzo e mi dice, mi dai due birre da portare via, non gliele posso dare, ok. Questo è quello che io ho capito dal suo discorso. Dopo le 19, esatto. Questo è quello che ho capito dal suo discorso, vabbè. Un altro pezzettino che ci viene tolto, va bene. Okay. Ma se io nel mio caso ho quattro tavoli fuori, solo quattro tavoli ho potuto mettere, ok? Ma ho una vetrina, fortunatamente tipo gelateria, dentro abbiamo deciso di comunque di restare chiusi al pubblico, quindi serviamo da questa vetrina, ok? E c'è gente che viene a trovarmi e si beve il drink in piedi davanti, cioè nel senso, se quello non c'ha voglia di sedersi. Questo è un bel tema. Quello è considerato asporto, dice Giovanni. Cioè, nel senso, se prende una birra tavoli, e sta in piedi, diciamo, intanto deve stare col distanziamento sociale. Ecco. È una bella domanda, è una bella sfida, Lucchetti. Ma Giovanni, ma sei venuto a capo di questa cosa o ci poni questo problema? Prima della chiusura, non riesco a venirne a capo. Cioè, non ho capito, ma non puoi chiamare qualcuno che ti aiuta. Devi chiamare uno nessuno 100.000 per risolverti il problema. Esatto, perché sono sicuro che Maniera ha la soluzione, cioè lui ce l'ha sempre le soluzioni. Vediamo, non è detto che sia una soluzione rispettosa della legge, però lui è vero, ce l'ha sempre. Vai Leonardo, qual è la soluzione? Dunque, per Giovanni? Dice che si possono mettere solo deve sapere cosa quattro, ha solo quattro tavolini. Hai solo quattro tavolini? Sì. Allora, il mio consiglio è di mettere invece di 4 tavolini un bel tavolone molto grande, ma anche che occupa la strada, metti un tavolone enorme. Ma scusa, un tavolone enorme dove si sta veramente si può stare tutti intorno sì, al tavolone. Re Artù, e dopo sì, lì puoi bere anche in piedi, però vicino al tavolone. Oppure mettere dei mini tavoloni. Ecco, no, questa è meglio. Ho una soluzione migliore. L'ho trovata. Mentre diceva una minchiata, stava pensando con una parte del cervello. Attenzione, l'ho trovata. Allora, invece di mettere 4 tavolini, immagino di dimensioni medie, metti 20-30 tavolini che sono come degli spilli, piccolissimi, in modo che uno può stare intorno al tavolino. In quel punto non è più, diciamo, uno che beve in piedi, ma è intorno al proprio tavolino. Quindi devi mettere una ventina, trentina di tavolini minuscoli, in modo che non sarà più assembramento di gente che beve in piedi, ma sono tutti intorno, ciascuno al proprio tavolino. E questa è la mia idea. Funziona, secondo me, come al ristorante egiziano. Sì. Esatto. Guarda che questa può essere veramente una soluzione. Giovanni, hai sentito la soluzione? Per la quale non ti potrebbero dire niente. Non mi possono dire niente, giusto. Esatto. 20 sono intorno al tavolino. Poi le dimensioni del tavolino, da 19 a un 2-3 mila euro per recuperare 20 mini tavolini. Ecco, guarda che le dimensioni del tavolino non contano, quindi tu puoi avere un tavolino di diametro di 5 centimetri quadrati, si sta solo un bicchiere, però è un tavolino e intorno a quello si può stare a bere, perché a quel punto fanno a pieno titolo, sono parte del locale. Io la vedo una buona soluzione, e anche con una punta di polemica, tra l'altro, sarebbe anche una polemica, quindi ha il doppio valore sociale pur rispettando la legge. È una forma di disobbedienza civile. Va bene. Giovanni, che è una soluzione trova giusta, qualcuno questa più informato. Comunque c'è una sfida Lucchetti in corso. Sfida Lucchetti. Allora, se Giovanni dà da bere, arrivano dopo le 19 delle persone che dicono grazie, mi dai una birra, Giovanni, e stanno lì a 3 metri in piedi, distanti ovviamente, distanti tra loro. Incorre in una qualche tipo di sanzione e il consumatore e l'esercente? Andiamo al traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Mi sembra che il contributo del 22% Covid è giustissimo e ha una sua logica, perché il commerciante quel 22% non ce l'ha di utile, copre appena le sue spese che ha fatto per andare a rispettare tutte le regole, per cui è giusto che in fattura quello rimanga a parte e non sia evidenziato come un suo utile. L'ordinanza del sindaco Sala, più che un'ordinanza per evitare assembramenti, mi sembra un'ordinanza per evitare l'uso di alcol. Cosa significa? Dopo le 19 non si può più consumare e vendere alcol, comprano tutti una Coca-Cola, un'aranciata e comunque faranno sempre assembramento. Ma perché allora, sia l'idea allora, che bevendo alcol non si capiscono più le distanze. Dove sei? Vieni qua. Ti pensi essere a 2 metri, magari sei attaccato. È per quello. Stai no? A 2 metri. È per quello. Non riesci più a rispettare le distanze di sicurezza. Non hai più la percezione esatta delle distanze. Vedi che noi abbiamo sempre allora una spiegazione per tutto. Sì, è certo. Attenzione, c'è la rivolta di Miriam Lucchetti. Il primo commento sulla sfida Lucchetti è stato, devo dirlo così proprio, e che palle, cioè come dire, che tipo di richiesta. Capito, Leonardo? Appena le cose si complicano c'è la ribellione. Le aveva chiesto l'altro giorno di contattare Paul McCartney e lei non c'è riuscita. Adesso non riesce neanche con queste richieste più semplici. Diciamo che si è fatta prendere dalla pigrizia Miriam Lucchetti, del resto. Si sa qual è la sua caratteristica di fondo. Cioè, gli ascoltatori non la conoscono. La pigrizia. Miriam Lucchetti, adesso non è per... Sì, io che la conosco non bene, ma insomma la conosco. Ho capito che tipo di lavoratrice è. È una di quelle... Prendi nota per il tuo legale, Miriam. Vai, vai. È una di quelle lavoratrici che si aggirano per la redazione fingendosi molto indaffarata, anche con sguardo molto teso, come dire, ho da fare molto, e vanno di qua e di là, sbuffano, e facendo sembrare di essere appunto molto occupate, vagando continuamente, in realtà, e non lavorando mai, diciamo, non facendo mai, nulla. Mai. No, fanno però si fingono molto indaffarata. È una tecnica molto utilizzata, e Miriam Lucchetti ne è la principessa, diciamo, di questa tecnica. Potremmo anche chiamarla questa tecnica, nominarla. La tecnica Lucchetti, sì. La tecnica Lucchetti, sì, la tecnica Lucchetti. Chi è che non ha un collega Lucchetti sul lavoro? Noi ridiamo, sai che ma io, lei ci sta io ho un'amica, già per parlare, tu lo sai. Io ho un'amica, che è riuscita io ho un'amica che è riuscita a farsi assumere ed è rimasta a lavorare circa 6 mesi con la utilizzando questa tecnica, senza fare nulla per 6 mesi, fingendosi però molto occupata. Era brava a fingersi occupata. E pensa che Miriam fa così da anni, insomma, credo. Anni, insomma. Va bene, dai, Leo, tocca a te adesso, vai. Allora, a mio parere, il coronavirus un effetto positivo ce l'ha avuto e continua ad averlo. Quest'anno, nel 2020, sono stati fin qui annullati già 20.000 matrimoni, effetto positivo, e molti di più salteranno in estate. Tutto è rimandato all'anno prossimo, ma non è detto che da qui a un anno i due sventurati non possano cambiare idea. Il matrimonio, in particolare il giorno del matrimonio, è sempre drammatico per quelli che partecipano. La sposa di regola è sempre molto tesa, si sente addosso gli occhi degli invitati. Ingabbiata com'è in quell'abito bianco ormai del tutto anacronistico, rischia quasi sempre una crisi di nervi già prima del fatidico sì. Qualche volta fatica a camminare sui tacchi, sbanda anche solo per fare i pochi metri per arrivare vicino all'altare. I capelli pietrificati con la lacca più di un muretto in calcestruzzo, gli occhi che vanno ciascuno per conto proprio, uno convinto e l'altro no. Di solito è il secondo che prevale e trascina con sé anche il primo. Poi c'è lo sposo, anche lui ingabbiato in abiti che forse andavano bene nell'Ottocento per fare il cocchiere di qualche carrozza. È passato in pochi giorni da calcio e rutti al corso prematrimoniale, dove ha dovuto fingere di volersi dedicare veramente a moglie e famiglia. Deve fingere di non volersi più occupare delle curve di altre donne, così come anche la moglie ripensa già con nostalgia all'addio annubilato che l'ha permesso di conoscere intimamente qualche spogliarellista senza cinturoni adiposi come quelli detenuti dal marito. Il padre della sposa, che accompagna la figlia all'altare, è abbastanza sollevato perché sa di essersi tolto un peso in casa, perciò arriva già quasi ubriaco, e più che accompagnare la figlia è la figlia che lo deve sorreggere. La madre della sposa piange non perché non avrà più la figlia in casa, ma perché senza figlia in casa non avrà più nessuno con cui sfogare i malumori causati dal marito. Se la sposa ha una sorella, questa cercherà di sovrastare la sposa in bellezza, cercando appunto di essere meglio di lei e causando invidie e gelosie che si ripercuteranno per sempre nella vita familiare. In chiesa c'è sempre qualche bambino che piange, nonostante sia stato sedato con medicinali che in teoria sarebbero proibiti ai minori di 12 anni. Il prete si lancia in prediche sottolineando l'importanza della famiglia e non considerando che probabilmente quasi tutti i presenti in chiesa sono per separati. Qualche parente stretto fa una lettura. Se è presbite, ha dimenticato gli occhiali, legge male, sudando. Poi si fa la foto tutti insieme sul sagrato. Il fotografo ufficiale, nell'attesa, ha fumato delle canne e le foto vengono mosse. Poi, quando le consegna, dice che adesso si usa così. Si va a pranzo. Già dopo l'aperitivo il livello alcolico è esondato, arriva il primo piatto, ma se è stato il profumo di ogni pietanza viene coperto dall'odore di sudore di tutti i convenuti. Si mangia a fatica il tris di primi, rimandando almeno uno al mittente. Quando arriva la carne nessuno la vuole più, la carne resta sempre, mentre invece si continuano a bere alcolici. I musicisti, gli unici che hanno mangiato tutto, fingono di suonare mandando musica dal computer. Qualche ospite canta, più canta male più viene applaudito, perciò ci sono molti applausi. Arriva la torta nuziale, qualcuno fa qualche discorso cercando la commozione. Il fotografo dovrebbe immortalare il taglio della torta, ma è in bagno a provarci con la cugina della sposa. Ormai è sera, ci si allontana furtivamente, restano gli sposi a immaginare la vita futura. Se si amavano prima, si ameranno anche dopo. Se non si amavano, hanno fatto bene a invitare anche gli avvocati. Ecco, il coronavirus almeno ha evitato tutto questo. Io me li vedo, insomma, queste immagini che tu racconti. Sentirei Laura da Ferrara. Buongiorno Laura. Buongiorno a voi, provincia di Ferrara, eh? Ah, benissimo. Sono della Bassa Ferrarese. Bassa, dove di preciso? Dove? Di Codigoro. Di dov'è? Codigoro, è la fine del fiume di Goro, diciamo così, dovrebbe essere. Comunque, io sono una ex volontaria da oggi. Sì, perché perché da oggi? Perché da oggi assisto ad un fuoco di fila stucchevole contro gente che negli ultimi 2 mesi, in modo particolare, ha speso di suo per mettersi a servizio della propria comunità, di chi aveva bisogno, in modo particolare degli anziani. E io adesso questa mattina mi devo sentire anche gli argomenti di uno stupevolissimo che mi ha meravigliata tantissimo, Gramellini, che mi ha detto quale spiona. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma io sono andata su questo, a mie spese. Su questo sa che devo dire, Laura, effettivamente anch'io ho trovato, forse l'aggettivo che userei, stucchevole, tutto il dibattito. Cioè io per una volta ho detto, ma io non ci vedo niente di male in alcuni assistenti, cioè alcuni volontari. Ho raccontato che al mercato comunale vicino a casa mia c'è una persona all'ingresso che dice, lei va alla frutta, lei va al pane, lei va, poi dà la mucchina, dice prego, l'entrata è di qui, l'uscita è di là, cioè non fa niente di più. Non è che viene con la paletta a sanzionarmi. Lei, Laura, cosa faceva in questi mesi da volontaria? Tutto, io ho portato a casa la spesa agli anziani, mi chiamavano per i medicinali. Ieri ho accompagnato una signora nella provincia di Rovigo, andando anche fuori regione, perché aveva bisogno di fare una risonanza da sola. Ci sono andata con la mia macchina, ho speso di mio. E io oggi sono una disoccupata del Covid, perché la mia azienda ha chiuso il 31 di marzo. Sì. No, ma è chiaro, sì, cioè, ho visto che questo dibattito, come al solito, è partito malissimo. Forse Boccia ha calpestato qualche piedino, nel senso che l'ha detto senza coinvolgere un altro ministro, e queste cose si fanno pagare, si vengono fatte pagare a Roma in una maniera terribile. In realtà non credo che il progetto in sé sia sbagliato, dopodiché è finita in vacca, come ho detto subito. Ho letto anch'io Gramellini, la perplessità è che quando si dà anche una briciola di potere non tutti sono in grado di gestire nel modo adeguato, bene. Allora magari ci si trova chi eccede. Ecco, questa c'è quello con la pettorina che fa il questurino, tu dici, esatto, un po' il rischio c'è in Italia. Io un lo po' farei c'è. Per esempio, io lo farei. Ecco, subito, penso questurino di propormi. Questurino, ma lei cosa fa? La denuncio alle forze dell'ordine, attenzione che io sono preposto a questo ruolo. Vai. Ciao, sono Barbara da Nuoro. I love my radio. Ciao, sono Anna da Cremona. I love my radio. Ciao, sono Rosaria da Napoli. I love my radio. Gli italiani amano la radio. La partecipazione del pubblico ai programmi della radio è aumentata di oltre il 27%. Il tempo speso in ascolto digitale della radio è aumentato del 61%. Ed è l'amica sempre vicina a 37 milioni di persone. Con dei numeri così, la radio è il grande amore degli italiani. Anche di chi investe in pubblicità. I love Italia. I love my radio. Uno, nessuno, 100 Milan. Manera, puoi fare i tavolini a castello, uno sopra l'altro, dai, è facile. La tecnica Lucchetti era molto usata in caserma. Quando passava un superiore, l'importante era avere una scopa in mano e dare 2 ramazzate ed era tutto a posto. Si chiama la muina. Noi al lavoro abbiamo una portabandiera della tecnica Lucchetti. La nostra segretaria fa tutto ormai la commercialista, lei inserisce le bolle, per carità, non dico che non fa niente. Stupendo. Ma gira tutto il giorno sbuffando e facendo finta di essere la donna più impegnata al mondo. È incredibile. Vedi, è incredibile. I nostri ascoltatori siete geniali. Questa tecnica è una cosa fantastica. Questa tecnica è già diventata la tecnica Lucchetti. Sì, ma è evidente che così bisogna sbuffare. Ma ce la vuoi aspetta a rispiegare per chi non ha capito bene? Allora, Leonardo Manera finalmente ha fatto cosa ti stai facendo? Un caffè? Finalmente ha fatto un caffè. Sì, un caffè solubile, metà orzo, metà caffè con un po' di latte. Sì. Detto che Lucchetti ha dato, devo dire, una sfida, una risposta al ristoratore di prima. Tra l'altro c'era anche un'altra curiosità, mi sono perso, essendo Elisabetta Fusconi di Isola, ma tu guarda te se deve fare una trasmissione per risolvere casi personali, vorrebbe sapere che tipo di locale abbia Giovanni di prima, perché ha detto in zona Isola. Vabbè, comunque sì. Le linee guida INAIL, ci fa sapere Lucchetti, dicono che bisogna privilegiare gli spazi all'aperto, ma in effetti i clienti devono stare seduti perché i tavoli devono essere disposti a distanza di sicurezza. I clienti che vogliono bere in piedi alla fine creano assembramento. Questa è l'INAIL, cioè se tu stai in piedi sei portato in generale a creare assembramento. Quindi come vedete è tutto interpretabile. Comunque da interpretazione INAIL parrebbe che non si possa stare in piedi. Detto questo, la cosa certa, Leonardo, è stato acclarato il metodo Lucchetti. Sì. La tecnica Lucchetti. La tutti tecnica hanno... Lucchetti. Sì. Sì. Sì. Allora, la tecnica Lucchetti, che è il modo migliore per lavorare il meno possibile, è vagare facendo per tutta la redazione, oppure se non sei in redazione per i vari uffici dell'azienda, fingendosi molto indaffarata, sbuffando, se è una donna spostandosi i capelli e appunto dando segni di grande stanchezza. Quindi è sostanzialmente una recita. Ecco. Buono questo caffè intanto? Cioè è anche sì, la sì. Tecnica Manera, bere, fare colazione durante la trasmissione, che è anche un po' è una variante della tecnica Lucchetti, proprio più godereccia proprio, quella di Manera. Andrebbe proprio istituzionalizzata come tecnica, sì. La tecnica Lucchetti, di cui lei allora, è maestra insomma. Sì, sì, sì. Allora, lei l'ha un po' quasi brevettata. Diteci anche voi se avete una Lucchetti o un Lucchetti come collega. La tecnica Lucchetti, ce lo dice dai tempi della caserma, passava al superiore, trac, scopa in mano, tac, sto pulendo qua e pulire un angolino. Bisogna sbuffare, dire qualche anche parola per manifestare insofferenza. Così, insomma, sì. L'ennesima riunione, passi e anche te ne vai così. Anche l'ennesima riunione. Mi tocca. Come non avessi già abbastanza da fare. Ecco, questa avevo già abbastanza da fare, mi tocca anche te, questa. Cosa e lasci questa scia di insofferenza sì, diffusa. Sì. Bello, va bene. Stefano da Siracusa, buongiorno Stefano. Buongiorno eccoci a voi. Eccoci. Buongiorno. Allora. Buongiorno di nuovo, c'ho un po' di rientro, attenzione, però... Va bene, dai, cerchi di non farci, di non darci peso, vai. Non c'è problema. Allora, niente, io stavo vedendo questa cosa, l'ordinanza di sala, l'episodio a Roma, del quale a Piazza Sonnino hanno distrutto un po' di alberi, cioè poi l'applicazione come sanità, come si chiama quella lì, quella che puoi segnalare, no? Io penso. Quale applicazione? Immuni? Ma non è ancora partita? Chi applica? Sì, però. Beh, non è ancora partita. Partirà. Con calma. Con molta calma. No, la mia preoccupazione, o il mio quesito è. L'emergenza, io spero che passerà entro un anno. Mi giungono notizie da Roma che passerà forse entro un anno, eccetera, eccetera. Però in che senso le giungono notizie da Roma? Che notizie arrivano da Roma? Su. Da Roma, attenzione, dai ministeri, cioè nel senso che non dai passanti. dai ministeri, gente, giornalisti ha detto, però quello che la mia preoccupazione è che tutto il sistema di controllo che si sta mettendo in piedi tramite telefonie, tramite videocamere, rimarrà in piedi, cioè rimarrà un apparato di sorveglianza estremo. Lei ha paura dello stato di polizia. Scusi, una curiosità, lei sta su Facebook, Stefano? No, sta su Facebook. Ogni tanto credo di mandarvi anche delle cose al vostro sito. Ha dei social, magari ha la piattaforma, non so, Amazon online. Come tutti avrai social, Instagram. Uso fondamentalmente Facebook. Facebook, e diciamo che quando si collega a queste cose, quando ha fatto i contratti con queste società, avrà dato i suoi dati, no? Avrà comunicato i suoi dati. E però è sempre quel timore, no? Si diceva una volta, per cui Leonardo, se te li chiede lo Stato, se te li chiede lo Stato. Sei un po' questa, più preoccupato. Anch'io, io devo dire che anch'io sono più preoccupato se mi richiede lo Stato. Secondo me. Invece se te richiede Facebook, vale, ma Facebook. No, io li do volentieri. C'è un motivo, voglio spiegare anche perché. Sì. Perché vediamo, attraverso Facebook io magari posso conoscere delle donne compiacenti, e attraverso il ministero, che so, XY, no. Cioè, questa per esempio è una spiegazione logica, cioè ha un suo senso, voglio dire. Certo, se tutte le applicazioni dello Stato, i controlli dello Stato mi permettessero poi di fare degli incontri con eventualmente donne compiacenti, io darei volentieri i miei dati anche allo Stato. Lo suggerisco, ecco, questo è un suggerimento. Sì. Che do per esempio il ministro Lamorgese piuttosto che a Boccia e così via. Va bene, va bene. Chissà se saranno presi da questo consiglio di Leonardo Manera. Oh, ma torna con noi Privato da Bergamo. Buongiorno, buongiorno, sio Privato. Buongiorno, eccoci. Buongiorno. Come va? Respiriamo, tutto bene. Respiriamo. Sì, sì. Come va Bergamo dopo bene, l'ultima bene, volta bene. Ci aveva detto un po' meglio, adesso ancora spero ancora meglio. No, ormai è fatta, mi viene da dire. Però volevo inserirmi, se era possibile, su quanto diceva il professor Palu e anche lei prima, sì. A proposito di un eventuale rischio di ritorno della pandemia, se siamo pronti, eccetera, eccetera. Perché vedo che ci girano attorno in tanti, ma insomma, il problema è molto semplice nella sua complessità, voglio dire, con tutte le precauzioni del mondo. Se noi abbiamo... Io sono dell'idea che ormai stia scemando la seconda ipotesi del professor Palu, quindi come è arrivata se ne sta andando. Palu, un po' di precauzione ci vuole, d'accordo, ma ormai quello che doveva succedere è successo e abbiamo imparato diverse cose. Ecco, nel caso di un ritorno di un problema di questo tipo o di un altro tipo, se noi abbiamo gli ospedali in armi, come li abbiamo, ormai gli ospedali sono in armi, ma se abbiamo anche il territorio in armi, io penso che liberi tutti, se no qui andiamo a ramengo, al di là della distanza, eccetera. Mi spiego, se noi non mettiamo mano alla riforma della medicina del territorio, ha voglia lei di dirci se state male, se avete sindrome influenzali o simili, non uscite, chiamate il medico di famiglia. Ma lei sa che ancora oggi, a quest'ora, la medicina, l'organizzazione della medicina del territorio non prevede la reperibilità, l'obbligo di rispondere no, al telefono. No, ma lo so. Infatti allora, è Privato le che due è un ipotesi medico, sono, sì, le due ipotesi sono, se mi permette, molto semplici nella sua loro complessità. Termini di organizzazione del territorio. O i medici di medicina di base, la medicina di base viene assunta in modo sinergico al sistema sanitario, ed è possibile, oppure si organizza in modo tale che quando una persona sta male a casa, chiama non nell'orario dell'ambulatorio, chiama quando sta male. E qualcuno gli deve rispondere per andare a casa. Sì, se noi avessimo questo territorio si dirà c'è la Guardia Medica, però effettivamente lo smantellamento che c'è stato del presidio territoriale, del rapporto medico-paziente, questo spero abbia insegnato per il futuro che va ripristinato invece questo tipo di rapporto. Sì, dipende molto dall'atteggiamento dei singoli, certo. Sì. Ci sono medici che comunque anche fuori dall'orario tendono a essere in qualche modo presenti. Ma sì, ma io del mio medico di base poi fortunatamente non ne ho quasi mai bisogno, ho il cellulare, quindi dovesse capitare riesco a chiamarlo. Ci sono però altri medici che non lo vogliono. Devo dire, come sempre, anche ci sono anche dei pazienti che sono dei rompimaroni, ecco, che magari chiamano perché hanno il male al ginocchio che 5 minuti prima non avevano e chiamano 500 volte. C'è anche da dire questo, e quindi magari è una forma difensiva quella di non dire, di non dare il cellulare a tutti. Guarda qua, per esempio, non dare i dati, io ascoltatore non li do né allo Stato né a Facebook né a Twitter né a WhatsApp. Si tiene i dati così della... ma io se c'è una cosa a cui non sono affezionato, non lo so, datemi del matto, è la privacy. Ma cosa vuol dire la privacy? Certo, non è che dico pubblicamente il mio numero di cellulare, ma solo perché se no ci sarebbero una serie di rotture poi da gestire. ma tu sei così legato alla tua privacy, signor Leonardo Bonetti, codice fiscale? Sei no, così, non così tanto, però. Cioè, di cosa hai paura se uno viene a sapere dove abiti, che non so, che hai qualche precedente penale, che hai un paio di volte sei finito in carcere, che hai qualche, sto dicendo per esempio la tua storia velocemente, cioè cosa, di cosa hai paura? Cioè che hai tentato una rapina in banca una volta, ti ricordo che una volta sono venuto a prenderti in questura per i capelli che non hai per tirarti fuori, cioè di cosa hai paura? Beh, ci sono comunque dei dati sensibili, per esempio quelli sì, sanitari. Se una persona ha dei problemi anche di salute, può non far piacere che sia però un dominio. Però se hai quel pubblico, debito di 10.000 euro che hai da sempre, Leonardo, mi hai parlato tante volte, perché c'è il problema a dirlo? È un debito di 10.000 euro, Leonardo Manera, va bene? Hai altro da aggiungere per valorizzare la mia immagine? Dopo che io ho già distrutto quella di Miriam Lucchetti. ma qui funziona così, ognuno cerca di distruggere l'immagine del prossimo, è una redazione coesa, unita. Non abbiamo mai detto molto di Lorenzo Nespoli, che se ne sta lì, democristiano, quatto quatto, cerca di passare inosservato, ogni tanto ti passa 10 euro, la classica mazzetta per cercare Lorenzo Nespoli è molto simpatico a mio figlio Beniamino, quindi faccio fatica a trovare, perché ha cercato di tenerselo subito buono. Sì, lui ha fatto la tecnica, no? Piace al figlio per andare d'accordo col padre, è proprio una tecnica terribile secondo me, di quelli che si insinuano un po' mielosi, no? Viscidi, sì, così, sì. È un po' così Lorenzo, è mieloso. Allora, Lucchetti fintamente dice questo. Amico. Lucchetti fa sapere, sento i miei avi che erano mezzadri e si spaccavano la schiena a coltivare la terra in Umbria, rivoltarsi nella tomba. Eh sì, certo, per la tua invece incapacità di, cara Miriam, di seguire le loro orme. dice così, comunque, dice a te che l'ha insultata molto. Comunque questa è la situazione, io non sono affezionato alla mia privacy, lo ma dichiaro, io ti dico, cioè, un po' sì, in maniera io ovviamente un po' sì. Sì, bisogna stabilire cosa sono i confini, cioè di, è chiaro che non so, la salute per esempio sì, va bene, però mi dite quali sono, qual è il confine, ci sono quelli ossessionati, non devono sapere quanti anni ho, dove vivo, nessuno deve, ma perché? Perché? Se me lo spiegate io vi giuro, vi ascolto, qual è il problema della privacy, tanto lo Stato sa tutto di me, se compio un reato e com'è che la questura, la polizia in due secondi mi chiama sul telefonino, com'è sta cosa? Perché evidentemente lo Stato sa tutto di me e anche di te. Infatti a me capitò, non so se avevo già raccontato quando fui vittima di un furto d'identità. Sì, sì, ce l'hai detto, dopo il traffico. Uno, nessuno, 100 Milan. This is a star that I know I'll believe in. So I'm leaving everything. Un sistema molto diffuso nelle medie e grandi aziende della tecnica Lucchetti è quello di camminare da una parte all'altra dello stabilimento con un foglio in mano. Non serve assolutamente a niente, ma nessuno ti chiederà dove stai andando e perché lo stai facendo. Beh ragazzi, io sul lavoro non l'ho mai usata, sono un lavoratore doc, non mi piace stare fermo. Con mia moglie la uso spessissimo la tecnica Lucchetti, per la paura che mi dia dei compiti da fare o dei lavori che non mi piace eseguire, ogni tanto magari mi faccio vedere nervoso e già troppo impegnato per ricevere altre cose. Vabbè, da fare. Giusto. Giuseppe, mia moglie ha un master in tecnica Lucchetti, capisci a me? Ci manda questo messaggio. Leonardo, vedi che abbiamo finalmente codificato questa tecnica molto in uso, le abbiamo dato un nome, è una buona cosa oggi. Oggi abbiamo fatto qualcosa di utile al mondo. Va bene, dopo ci racconti il furto di identità che ci hai già detto comunque. Però voglio salutare intanto il sindaco, un sindaco di Castelfranco Emilia, siamo in provincia di Modena. Buongiorno a Giovanni Gargano, grazie. Buongiorno sindaco. A tutti voi, grazie a voi dell'invito. Allora, io devo dire che anche a Milano ho iniziato a vedere per il quartiere guanti monouso per terra, mascherine, gente che butta le mascherine. Allora, giustamente lei vuole stroncare questo vezzo e vizio in maniera dura. Ora, il problema, sindaco, ci deve spiegare, so che ha messo delle multe molto alte, il solito problema è che le multe vanno messe e poi vanno anche comminate, perché si ricorda le multe per il mozzicone di sigaretta per terra? Io non ho mai sentito uno multato per questo, però ci spieghi che multa si prende a Castelfranco buttando una mascherina per strada. Allora, intanto partiamo dal cercare di contestualizzare la cosa. A parte che il gesto è assolutamente esecrabile, quello di gettare mascherine e guanti per strada, come è esecrabile qualsiasi tipo di rifiuto abbandonato. In particolare le mascherine e i guanti sono da ritenersi rifiuti pericolosi, e in quanto tale, applicando ciò che il regolamento rispetto ai rifiuti in vigore dice, che abbandonare i rifiuti la pena comminata è da 300 a 3.000 euro. Se sono pericolosi si raddoppia semplicemente la sanzione. Qui ovviamente diciamo che io mi auguro di non dover vedere nessuna multa, sanzione fatta a nessuno, perché vorrebbe dire che il comportamento del singolo e la responsabilità del singolo in tal senso è assolutamente opportuna e valida. Però qualora si dovesse trovare davanti a una situazione di questo tipo, credo che sia assolutamente giusto sanzionare le persone, tenendo presente che ovviamente se uno non getta mascherine e guanti per terra la sanzione è zero, ovviamente. Sì, chiaro. Certo che purtroppo la gente invece, insomma, no, vorrei condividere il suo ottimismo, purtroppo la gente invece lascia lì le deiezioni dei cani, butta le cartacce, e adesso c'è questo incumbenza della mascherina. Infatti ha perfettamente ragione, io ho tirato questa ordinanza al limite, ma perché c'era anche un altro fattore importante, e richiamare l'attenzione delle persone rispetto a questo argomento. È ovvio che sono mesi, settimane che noi ripetiamo il mood di dire signori non dovete, è ovvio che proprio questa cosa qua spesso e volentieri sono disposizioni che vengono buttate in mezzo alla gente, ma con poca attenzione. Io devo dire che con questa ordinanza ho colto l'attenzione di tanti, di molti, anche nella stessa mia città, e questo contribuisce comunque al mantenimento di un decoro complessivo che ha sicuramente avuto già un primo effetto positivo. Perché la gente mi ricorda quant'è il massimale della multa? Cioè, se io sono 6.000 euro. Butto... Sì, 6.000 urbani, euro. I rifiuti urbani pericolosi, come vengono considerate le mascherine e i guanti, arrivano fino alla multa da 600 a 6.000 euro. Ma anche una mascherina? Cioè si rischia di incorrere? Sì. Accidenti. Sì, non è attenzione, cari cittadini. Non è il numero che fa la differenza. No, è chiaro. Cari cittadini, attenzione, a Castelfranco rischiate 6.000 euro al massimale di multa, perché a Castelfranco Emilia si è buttata una mascherina, è considerata rifiuto urbano pericoloso. D'altronde un po' lo è anche il tessuto. Cioè, tra l'altro, io sono stato a Castelfranco Emilia l'estate scorsa, ho fatto lo spettacolo proprio a Castelfranco Emilia, mi è sembrata una cittadina molto... molto ordinata, tra l'altro. Vabbè, il sindaco lo ricorda come uno dei momenti più bassi di Castelfranco Emilia. Ma no, diciamolo che Castelfranco Emilia è stata un po' la fossa delle Marianne. No, tra l'altro è venuto a onorarti durante il nostro momento più importante dell'anno, che è la sagra del tortellino tradizionale di Castelfranco Emilia. E quindi sì, è stata una serata bellissima. all'interno di questa meravigliosa sagra, perché Castelfranco Emilia è la città che ha dato i natali al tortellino tradizionale che tutti noi conosciamo. Sì, sì. Sì. Abbiamo fatto questa, non rilanci questa disfida, sindaco, perché l'anno scorso ne abbiamo parlato, la disfida di chi è l'inventore del tortellino. Beh, io poi devo dire che scoppiano dei casini delle guerre mondiali. Quelli che ho mangiato lì erano veramente squisiti, infatti ne ho presi due piatti, insomma. Anzi, consiglio a tutti di andare a Castelfranco Emilia quando c'è questa sagra, perché è un'esperienza culinaria da provare, insomma. Sì. E soprattutto di rispettare le ordinanze. Assolutamente sì, ma questo credo che sia buono, rispettarle a tutti in tutta Italia, perché abbiamo bisogno di veramente in questo momento di grande responsabilità da parte di tutti, sia nell'utilizzo di questi strumenti, ma soprattutto nel rispetto degli altri e dell'ambiente che ci ospita. E lasciare questi dispositivi per terra è veramente un gesto esecrabile che deve essere ovviamente condannato, perché mina profondamente quello che poi è la tenuta anche della stessa comunità, perché vuol dire non avere il rispetto degli altri. Questa è una cosa che è inaccettabile, tenendo presente che sui guanti e sulle mascherine non ci sono solo problemi legati al Covid, ci possono essere problemi anche di altre malattie che sono allo stesso tempo gravi come il Covid. Basta pensare alle epatiti, ok? Quindi sono strumenti, sono dispositivi che non debbono essere buttati per terra. Se questa ordinanza, che fa molto discutere, eccetera, eccetera, però coglie l'obiettivo di richiamare l'attenzione delle persone, credo che il rimbalzo è stato positivo. Vedremo come va, sindaco, la prima multa, se mai ci sarà, speriamo di no. Intanto grazie, buon tortellino grazie a Giovanni Gargano. La prossima sagra del tortellino. Sì. Sì, certo, grazie. Sindaco di Castelfranco Emilia Modena. Guarda qua, Leonardo, arrivano tanti commenti. C'è chi dice la privacy non è questione legata al singolo, ma al rischio del controllo massivo di dati, e questo lo posso capire. Ma la migliore spiegazione del perché, io ho detto, non sono così affezionato alla mia privacy, cioè da esserne maniacalmente affezionato. Non sto dicendo che do il mio cellulare al primo che passa. Antonio dà la spiegazione migliore: ma perché una vita con zone d'ombra è molto più interessante. Questa è magnifica, no? Antonio per questo motivo non svela tanto della sua privacy, mentre Marco è un po' complottaro a dire: è molto semplice, gli italiani sono un popolo di furbi con false residenze, false domiciliazioni, affitti in nero, debiti non pagati, e quindi non vogliono essere rintracciati perché si guardano le spalle di continuo. Tu ti guardi le spalle di continuo, Leonardo? Ma secondo me c'è un altro problema invece, che è quello della scultura sociale. Ti piace come definizione? Oggi dopo la tecnica Lucchetti ti inventi questa roba. Sei lo Zygmunt Bauman dei miei coglioni. Nel senso che se la il nostro stato, la scultura sociale, sì, attenzione, se lo stato sa tutto di noi, può scolpirci, può scolpire la società così come vuole, e se ci capitasse di avere un governo particolarmente autoritario, potrebbe effettuare questa operazione di scultura sociale, modellandoci inventa come la società liquida e tutti a elogiarlo. Adesso arriva qua il Manera con la sua cultura sociale e tutti a denigrarlo. Ma guarda che il mondo è davvero un posto ingiusto. Verrò rivalutato alla fine, dai. La borsa. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta 1, nessuno, 100 Milan. Bonetti ha paura di far sapere il suo numero di telefono, l'indirizzo, perché sennò gli arriva a casa qualche marito incazzato e lo vuole trucidare. Ve lo dico io, la vita di chi avete distrutto, del povero Meazza, e che prende le mazzette, e che ha le tangenti, e che guadagna coi mercati e con la borsa, e poverino, lui sì che gli avete rovinato la vita. Manera, parlaci della tecnica Milan, quella di sfumare le telefonate agli ascoltatori che intervengono. ma no. Sì, sì, tra l'altro lo fa in modo subdolo, perché non è come a volte fa Cruciani o anche Nicoletti che dicono giù il microfono, via, basta, chiudiamo. No, lui lo fa in modo così, no? Poco alla volta, intanto fa segno a Peter in regia, bassa. Ma sì, beh, non abbiamo tempo. Poi dice, purtroppo, sa, non abbiamo i tempi radiofonici. E intanto dice a Peter, togli, taglia. Fa il segno della forbice vero. A Peter. Fa sempre il segno della forbice così a Peter. Ma non è vero. Il taglio della gola. Non è vero. Sì, in modo subdolo lo fa. Non è che siccome c'è la tecnica Lucchetti... Allora, affinate, trovate un mio difetto grave e ditelo, non è che devi dire la prima cosa che passa, cioè la tecnica Lucchetti finalmente ci abbiamo messo un po', abbiamo trovato il coraggio, ma Leonardo Manera, io non l'avrei mai fatto, ma lui veramente bastardo dentro, ha svelato dopo anni la tecnica Lucchetti e abbiamo scoperto che è molto diffusa in vari posti di lavoro. Cioè l'imboscato, come l'imbucato, come dobbiamo definirlo? Sì, no, ma non è no, è il contrario dell'imboscato, perché non è quello che sparisce, anzi è quello che si fa vedere molto presente fingendosi indaffarato. È il contrario dell'imboscato la tecnica Lucchetti. Cioè c'è sempre, sì. Ma fa poco. Ma non fa nulla. Non fa nulla. Poco o nulla. Allora, adesso, bene. Cari ascoltatori, alle 10:37 minuti, e questo è per rafforzare, per unire la redazione, alle 10:37 minuti vogliamo parlare di questa iniziativa. Ora, diciamo che l'economia è a terra, sicuramente leggo, ci saranno oggi sui giornali, dicono 10 milioni di nuovi poveri nei prossimi mesi, allora chi ha delle attività si ingegna in qualche modo. Per esempio, il presidente della cooperativa Peralba di Costalta, siamo in provincia di Belluno, Elvio Casanova Bolca. Buongiorno Elvio, grazie di essere qua. Buongiorno a voi. Allora, ha lanciato un'iniziativa con la sua cooperativa, Adotta una mucca. Allora, devo dire che io quando l'ho letto, la nostra Elisabetta Fusconi subito ha detto adottiamola noi come trasmissione, adesso... ci lavoriamo. Che cosa vuol dire adotta una mucca, Elvio? Allora, adotta una mucca è un progetto che nasce sostanzialmente per portare avanti le piccole realtà di montagna e i piccoli allevamenti. E niente, è già un po' che la pensiamo, la stiamo mettendo in progetto. Poi è arrivato il coronavirus, noi lavoravamo parecchio con il turismo. Questa sì. È una zona turistica, la gente viene anche a sciare, a fare dei trekking, delle passeggiate, quindi prima di andare via o comunque quando mangia le piace mangiare dei prodotti tipici e comprarli e portarseli a casa, e tutto questo praticamente è andato a zero, perché certo. La gente non si è più mossa, non ha potuto più farsi il weekend in montagna piuttosto che, e quindi noi ci siamo ritrovati con le vendite a zero o poco più. Allora ci siamo detti cosa facciamo, cosa non facciamo, proviamo a fare questa cosa. Allora, adotta una mucca, come funziona? Praticamente una persona entra sul nostro sito, sceglie un animale che le è stato simpatico, lo adotta con una soluzione di un mese, sei mesi sì. Oppure un anno. Pagando, ovviamente, poi, ci puoi dire anche i prezzi, sì. Quanto costa? Sì. Certo, allora un mese siamo sui 39 euro, due mesi sono 219 euro, scusi, sei mesi, euro, sì. E un anno 409 euro. Questo perfetto. Comprende praticamente c'è l'adozione dell'animale, quindi la mucca è in adozione a voi per il periodo. C'è un certo caso di adozione che viene spedito direttamente a chi l'adotta e con il certificato vengono spediti i prodotti, quindi un tot di prodotti che noi specifichiamo. Quindi i prodotti sono burro, formaggi. Sì, esatto. Ecco, sui formaggi, Elvio, devo dire, è su questo che si è un po' arenato il progetto di Uno Nessuno 100.000 di adottare una mucca, ma adesso ci stiamo lavorando. Il buon Leonardo Manera odia i formaggi, è allergico ai formmaggi. Come facciamo? Ma perché non ha provato i nostri? No, passerebbe l'allergia sicuramente. Guardi, a me piacciono solo, io mangio volentieri solo i formaggi che non sanno di nulla, cioè quelli che non sanno di formaggio. Quindi no, i vostri invece no, saranno molto saporiti, immagino. Sì, allora il nostro formaggio, diciamo, è fatto con l'erba in questo momento, con l'erba, perché gli animali sono fuori, mangiano solo erba, di conseguenza tutti i fiori, tutta l'erba vi arriva direttamente a casa. Stupendo. Allora, tra l'altro c'è un sito, è questo www.adottaunamuccacostalta.it, tutto attaccato. Poi, se come al solito, se gli ascoltatori non recepiscono bene il messaggio, scrivete una mail a noi 100.000@ragno24.it e noi ve lo diciamo. Comunque www.adottaunamuccacostalta.it. Sì, c'è il sito e poi c'è anche la pagina Facebook, se volete magari. Sì. Sì. Mettere mi piace sulla pagina Facebook e la seguite. E quindi quanti prodotti sono assicurati? Cioè uno si adotta una mucca per un anno e quanti prodotti mandate più o meno? Perché allora, una cifra, noi, no, 409 euro è una cifra importante comunque. Sì, allora praticamente il pacco comprende mezzo chilo di burro e un chilo di formaggio di stagione, che può essere un latte fieno dell'inverno, un latteria come lo chiamiamo noi, quando le mucche in inverno stanno in stalla perché c'è la neve, non possono uscire. E poi in estate, quando gli animali vanno in alpeggio, in malga, c'è un formaggio di malga che è un po' più saporito, una soluzione sempre da un chilo per ogni pacco. Sì. E poi c'è una caciotta sempre da un chilo, che è un formaggio un po' più fresco, e per un totale di 2 kg di formaggio e mezzo chilo di burro ogni mese. Ogni mese, quindi 2 kg di formaggio e mezzo chilo di burro, cioè, a casa. Il pacco vi arriva direttamente a casa e niente, spero che vi piaccia. Sì, no, ma quei prodotti, ovviamente. Quei prodotti vengono fatti con il latte della mucca adottata oppure mucche qualsiasi, anche sconosciute? Allora, diciamo questo, adottare una mucca è una cosa un po' simbolica. Ovviamente noi non compriamo latte, diciamo, da, che ne so, da chissà dove, non voglio stare a specificare. Noi abbiamo un totale di circa 50 vacche in lattazione nella nostra cooperativa, in 5 soci. E questo è il latte che viene trasformato, quindi il latte viene trasformato è il latte, sì, di questa piccola realtà, diciamo. E il prodotto è solo questo, noi non abbiamo altro prodotto. Non allora, mi sembra un'iniziativa. Allora, è chiaro che se uno fa un rapporto tra i prodotti e il costo, magari, cioè, è anche un pochino costoso farlo, ma è un modo, come dire, per aiutare a far ripartire un'economia di un settore estremamente in crisi, già in crisi in tempi normali. Mi sembra che con il coronavirus, Elvio, sia doppiamente in crisi, perché già il lavoro che fate è molto apprezzabile e molto raro in tempi normali. Sì, diciamo adesso che il latte è perennemente in crisi. Un po' dobbiamo ringraziare il nostro bel mercato che purtroppo il prezzo del latte è sempre basso, è sempre molto basso. L'allevamento richiede molte spese, è sempre un problema fare latte, diciamo. Speriamo così di riuscire a tutti questi costi e soprattutto riuscire così a rimanere sul territorio, come dicevo, un territorio difficile, e curarlo, tenerlo ben curato. Certo. Allora, Elvio, facciamo così. Elvio Casanova Bonte, il nome della cooperativa. Il nome della mucca. Ma il nome della mucca, appunto, se noi alla fine convinciamo Manera e adottiamo una mucca, lo scegliamo noi il nome si chiama mucca? No, certo, ha un nome, che discorso, stiamo scherzando. Qua è come no. Di famiglia, una mucca, non è mica... No, certo, allora, certo. No, ma possiamo possiamo poi cambiarlo? No, perché il nome c'era già. Sono molto geloso. Ma giusto. Cioè, che nome hai? Tipo qualche nome di mucca che si può adottare? Allora, sul sito in questo momento, se non erro, ci sono 12 mucche in adozione per il momento. Sì. Le mucche sono Paolina, adesso vi dico qualche nome, Paolina, poi c'è Pirke che è la più gettonata perché di solito fa l'intervista con me. Qual è? Scusa, l'altro no, non abbiamo capito, Circe? Birce. Con la P di Bologna. Sì. Birce, cioè, fa l'intervista perché è lì a fianco, cioè perché può dire qualcosa, non è lì adesso Birce. Sì, sta ruminando, sta guardando. Dirà, e come si fa a farla muggire? C'è un modo per dire Birce? Ma posso provare a chiamarla, ma prova. Un po' rilassate. Vediamo perché... un po'. La vedo dura, sono in relax totale. Sono pigro. Proprio non mi interessa niente. Sono lì. Hanno imparato la tecnica Lucchetti, mi sa. Stanno lì, ma non lavorano. Scherzo. Tanto Birce, più adesso Birce. Pensiamo a loro, noi tanti italiani, pensiamo a loro, quindi loro sono tranquille, beate, se la passano. Va bene. Paolino, Birce, un altro nome che si può adottare? E poi abbiamo la Barbie. Abbiamo la Blume, sì. C'è la Luna, la Irene, c'è la Stella. C'è un imbarazzo della scelta. Sul momento non mi vengono i nomi un po' duro. Ma ce ne sono un po'. Allora, facciamo così. Noi intanto ci sentiamo più avanti ringraziando Elvio Casanova Bolca. Ripeto, www.adottaunamuccacostalta.it. Volete adottare una mucca e avere in cambio dei prodotti? Eccolo lì, potete andare sul sito e farlo. Grazie Elvio, ci sentiamo presto. Grazie mille a voi per questo spazio e buona giornata, buon lavoro. Ale, in bocca al lupo. Uno, nessuno, 100 Milan. Claudio da Bologna, Manera ha assolutamente ragione, essere invitati ai matrimoni è una totale sciagura, una sventura, qualcosa da evitare in tutti i modi possibili. Tant'è vero che mia moglie ed io, per non dover infliggere una pena di questo tipo ai nostri invitati, da Bologna siamo andati a sposarci nella provincia pavese, in campagna della Bassa Ceranova, un paesino di poche anime. Giusto, evitare. A questo proposito è arrivata una mail di Paolo. Buongiorno, grazie all'ottimo Leonardo Manera che in 2 minuti di monologo sui matrimoni non celebrati ha distrutto il lavoro che da decenni coppie di volontari, professionisti e sacerdoti cercano di fare nelle parrocchie per preparare i fidanzati a un grande passo che nell'idea di questi pazzi volontari dovrebbe essere per sempre. E poi vogliamo dirlo che i corsi prematrimoniali insomma lasciano un po' il tempo che trovano, perché io conosco persone che non credenti, che non si comporteranno mai nella vita come viene consigliato di fare nel corso prematrimoniale, però devono frequentare quegli incontri per poter arrivare al matrimonio, quindi insomma Eccolo qua, continua, persiste nel suo atto distruttivo. Va bene, dai. È arrivato però, credo, a casa tua a tenerci un po' di compagnia e allegria Neronello. L'amico dei bambini. Yup. Buongiorno, sto ancora lavorando in smart working come clown. Appaio sullo schermo del computer dei bambini, lancio dei coriandoli e faccio subito un indovinello per farli divertire. Ad esempio, bambini, perché l'orso tossicodipendente vive in montagna? Perché c'è sempre la neve. Appena detto questa bella battuta, molto adatta ai più piccoli, uno di loro ha preso un tavolino di cristallo e l'ha puntato verso di me. Allora gli ho detto, caro bambino maledetto, vuoi fare una cosa davvero divertente? Riempi di cera il pavimento del salotto, poi immergi nell'olio le ciabatte e portale al nonno. Stava per succedere l'irreparabile, quando è rientrata la madre mi ha detto, Neronello, lascia stare il nonno, perché non scivoliamo insieme in un turbine di passione? Abbiamo iniziato a scambiarci dei messaggi bollenti, ma ormai scadeva il mio tempo, allora l'ho salutato e ho raccontato una delle mie favole, le favole del clown Neronello. C'era una volta un piccolo villaggio incastonato tra due vallate. Regnava su di esso una bellissima principessa con i capelli color dell'oro e profondi occhi turchini. Riceveva molte proposte matrimoniali, nobili, ricchi e potenti la volevano sposare, ma la sua risposta era sempre no. Un giorno la principessa ebbe un'idea. Si ricolleghi, Neronello, perché la app ha iniziato a fare le bizze. Eccomi di nuovo, sono tornato. Tornato. Un giorno la principessa ebbe un'idea. Tutti i giovani del regno mi mandino una lettera. Sposerò colui che riuscirà a rapirmi il cuore con le sue parole d'amore. Le lettere inondarono il palazzo. La principessa leggeva giorno e notte finché selezionò tre pretendenti e decise di incontrarli, bendata, per non essere influenzata dal loro aspetto. Toccò al primo pretendente. «Oh, mia dolce principessa, sei meravigliosa come un ciliegio in fiore!» La principessa sbadigliò, quindi fece condurre il giovane nel fossato del castello tra topi e serpenti. Toccò al secondo pretendente. «Oh, mia dolce principessa, sei meravigliosa come la luna in una notte d'agosto!» La principessa sbadigliò, quindi fece condurre il giovane nel fossato del castello tra topi e serpenti. Toccò dunque all'ultimo pretendente. «Oh, mia dolce principessa, tu sembri proprio una bella smandrappata e sono sicuro che sotto le lenzuola sei da 10 e lode. E tu chi saresti?» sbottò la principessa togliendosi la benda dagli occhi. «Mi chiamo...» «Mi chiamo Ortodonzio, ma tu puoi chiamarmi Orti, Ciccia!» esclamò il giovane sistemandosi con la mano il cavallo dei pantaloni. «Yupo!» La principessa era indecisa. Quel giovane era sicuramente audace, diverso da tutti gli altri. Certo, quella dentatura era veramente complessa e il borsello a tracolla non aiutava. «Ok, ti sposo!» esclamò la principessa fra lo stupore generale. «E vai, grande!» esclamò Ortodonzio, dandole una pacca sul sedere. La principessa si pentì all'istante, ma ormai era troppo tardi perché aveva dato la sua parola, e così Ortodonzio divenne principe. Bambini, qual è la morale della favola? Se cercate la poesia delle cose e la bellezza in ciò che fate, finirete nel fossato del castello tra topi e serpenti. Se invece improvvisate e puntate tutto sulla mancanza di gusto, finirete sposati con una bella principessa e sarete per sempre felici e contenti. Questa è la morale della favola, cari bambini. Arrivederci alla prossima favola e alle prossime avventure del clown Neronello, l'amico dei bambini. Yup! Yup! Certo che questo Ortodonzio, va bene. La ringraziamo, Neronello, per questa sua ventata di allegria, oserei dire. Allora, ci segnala un ascoltatore via mail e un altro ascoltatore su SMS, sul sito c'è scritto che le adozioni delle mucche sono chiuse. Ma com'è possibile? Adotta una mucca costalta.it. Adesso dobbiamo subito ridire a Elvio di farci adottare Irene, Stella, Blumen, Birce, Paolina, insomma, una mucca, ecco, perché altrimenti che ce n'erano 12. Sì, 12. Lui diceva, a meno 12, che non siano andate a ruba come i contributi dello Stato per le mascherine, un secondo e 0,4 e sono finiti. Può i contributi. Darsi. Sono finiti le mucche più da adottare. Perché sai che in questo periodo si è cercata molto la mucchina, quindi... Non ci credo. Dovevamo concludere un po' prima, cari ascoltatori. Chiedo scusa. Dovevamo finire alle 10.45 oggi. Poi c'è stata questa cosa di Manera che mi scriveva privatamente. No, devo dire una cosa in chiusura, ce l'ho qui da ieri. Questo non è vero. Le cose migliori vengono sempre improvvisando così. E allora è andata così. Va bene, scriveteci a 100milan@radio24.it, cercheremo di capire il mistero della mucca non adottabile e di svelarlo per domani. Noi ci troviamo domani. Ormai tu, Leonardo, non vuoi fare più le urla. No, basta. Non ha più senso. Non è la fase 2 avanzata, fase ci ricorda la fase 1. Quindi andiamo avanti. Ti mettono una camicia di forza, basta, andiamo. Esatto. Ale, a domani, ciao. Uno, nessuno. Uno, nessuno, 100.000.